Un libro tira l'altro, di Salvatore Carrubba. Buonasera cari amiche e cari amici, siamo ormai alla vigilia dei giochi olimpici, le Olimpiadi di Rio, e allora vi segnalo un libro di Eva Cantarella, che è una nota studiosa dell'antichità classica, ed Ettore Miraglia, che invece è un giornalista sportivo. Insieme hanno scritto L'importante è vincere, pubblicato da Feltrinelli, 160 pagine, 14 euro. Il titolo naturalmente rovescia la prospettiva di De Coubertin, perché qui si parla nella prima parte delle Olimpiadi degli antichi greci, ai quali interessava sì partecipare, ma soprattutto vincere. Eva Cantarelli ci dà una vivacissima ricostruzione di che cosa fossero le Olimpiadi antiche, che continuarono a svolgersi di 4 anni in 4 anni, dal 776 avanti Cristo al 393 dopo Cristo, dunque per più di 1000 anni. La studiosa ce ne spiega l'origine, il significato, che compara assieme a Miraglia al significato delle Olimpiadi attuali, e Miraglia infine ci parla delle Olimpiadi moderne, delle attuali discipline. E sulla comparazione tra le antiche e nuove Olimpiadi sentiamo allora gli autori. Buonasera Eva Cantarella ed Ettore Miraglia. Buonasera. Eva Cantarella, partiamo da lei e partiamo da questo titolo. I greci insomma erano un popolo veramente competitivo. Estremamente competitivo, cioè naturalmente nel tempo la cosa cambia nel corso della loro storia, ma basta leggere Omero per vedere come l'etica sociale dei greci fosse veramente, ma da più che competitiva, terribilmente competitiva. Naturalmente col passare del tempo, con l'aumento della democrazia, ma nel senso in cui si può intendere la democrazia a quell'epoca, nella polis le cose cambiano, ma la competitività rimane una cosa assolutamente fondamentale di tutta la storia greca, anche in campo sportivo, quindi ovviamente, anzi direi in primo luogo in campo sportivo. Però lei ha fatto il cenno alla polis, e questa competitività si estendeva proprio alla concezione del modo di essere cittadini, bisognava essere competitivi anche per vincere le assemblee, per esempio. Assolutamente. Tra le virtù, le qualità che servono a essere una gazzos, una persona importante, tra l'altro è interessante che c'è la parola kallokagazia, kalloskaya gazzos, chi è virtuoso politicamente, socialmente e anche bello fisicamente perché è allenato bene, no? È sportivo. E dicevo, tra le virtù c'è la capacità di parlare, di essere buon parlatore, già in Omero gli eroi sono anche buoni parlatori, ma soprattutto in età omerica, devi convincere gli avversari nelle assemblee del fatto che tu hai ragione, devi convincere in tribunale, i greci non esistevano gli avvocati, dovevano andare personalmente in tribunale e dovevano convincere gli avversari di aver ragione o torto, secondo che l'altro avversario aveva torto, secondo dei casi, quindi era fondamentale. E anche il sistema educativo, come diciamo noi, loro avevano una parola più bella, la paideia tendeva a questo obiettivo. Assolutamente, la paideia viene sempre riassunta dalle parole del centauro Chirone, che aveva insegnato ad Achille che bisogna essere sempre il primo e il migliore. Però la competitività aveva un limite, non bisognava imbrogliare. Sì, non bisognava imbrogliare, ma voglio dire che gli imbrogli c'erano, perché quando si parla degli, c'erano già in Omero, nelle gare omeriche, già quando c'è nelle gare in onore di Patrocle, della morte di Patrocle, quella che indice Achille, già lì cominciano a imbrogliare. Si dice a volte, gli studiosi dello sport a volte hanno detto e dicono che gli imbrogli nascono quando l'atletismo si diffonde, anche le classi meno abbienti possono cominciare ad accedere, perché nella polis si costruiscono i ginnasi che cominciano anche prima, insomma comunque si dà la possibilità, comincia Solone a tentare di ammettere anche le classi più basse alle gare atletiche, che erano molto importanti naturalmente anche socialmente, come ascensore sociale, se vincevi cambiavi classe sociale diremmo oggi, e beh, si dice a volte che è il professionismo, la nascita del professionismo ad avere causato l'ingresso dei brogli, l'abitudine a imbrogliare, non è vero, cioè sono stati fin nel mito di fondazione delle Olimpiadi c'è un imbroglio, ma vari imbrogli ci sono. Poi a un certo punto arrivano i professionisti, come lei stesso accennato poco fa. Sì, Arrivano i professionisti, beh, perché sono questi quelli delle, in un primo momento chi compete, chi combatte alle Olimpiadi, chi combatte, chi partecipa e via, sono gli aristocratici che erano professionisti anche loro in un certo senso, quindi non hanno mai lavorato in vita loro, avevano gli schiavi e quindi si dedicavano tutta la vita ad allenarsi fisicamente e a coltivare le cose, le virtù dello spirito, ma erano dei professionisti in questo senso, no? Non lo facevano per guadagnare, ma erano professionalmente allenati a fare quello. E poi appunto con Solone è il primo, fa una cosa molto importante. In un primo momento i premi erano solo simbolici, le famose corone, no, di olivo, quello che era a seconda dei casi, e Solone dà una piccola somma. E lì è l'inizio di questo processo che porta anche le classi, oggi diremo la classe media, o anche i più poveri, possono andare nelle palestre, perché gli aristocratici avevano i loro istruttori privati naturalmente, e invece nei ginnasi, nei famosi ginnasi, tutti possono accedere e quindi si diffonde, nasce questo professionismo diverso, ecco, più professionismo nel senso in cui lo tendiamo oggi. In questa dimensione c'entra anche il sesso. Il sesso è molto importante, è fondamentale, è una cosa che non si dice molto spesso, ma i ginnasi, che tra l'altro la parola viene da gymnos che vuol dire nudo, ma nudo perché gli atleti naturalmente si allenavano nudi, ma non è questo il problema, la nudità non era di per sé un fatto sessuale, anzi non lo era per niente, ma nelle ginnasi andavano sia i ragazzi che si allenavano, sia gli adulti che andavano a ammirare i bei ragazzi. In Platone leggiamo di anche Socrate che va con i suoi amici al ginnasio e quando vede un bel ragazzo dice: ho perso la testa, perché era esplicitamente così. Allora era assolutamente normale, perché il rapporto amoroso tra un adulto cittadino e un ragazzo giovane, un pais, la famosa pederastia, che imparava dall'adulto le virtù del cittadino, era normale, non solo nessuno si scandalizzava, ma era positivo, era positivamente valutato, sempre che venisse vissuto secondo delle regole molto precise, che erano un po' come una volta le ragazze, il ragazzo si doveva far corteggiare, doveva essere sicuro che l'amante lo amava perché lo amava veramente, non solo perché era bello, che volesse insegnargli a diventare un buon cittadino e via dicendo. E che rapporto c'è fra le donne e lo sport nell'antica Grecia? Questo capitolo si conclude proprio su questa osservazione, con queste osservazioni? Che non è vero, si dice sempre spesso che le donne greche non svolgevano attività sportiva. Invece questo non è vero, le donne greche svolgevano attività sportiva, diciamo non agonistica. Lo sport che praticavano regolarmente era la corsa, ovviamente più leggero, no, degli altri sport olimpici vari, e lo facevano per ragioni fondamentalmente, a Sparta dichiaratamente, solo eugenetiche. Chi naturalmente era allenato, la donna allenata fisicamente partoriva più facilmente, partoriva figli più sani. Per le gare di corsa erano un momento del rito di passaggio delle ragazze dall'età impubere all'età pubere, al momento del matrimonio, e li correvano non per vincere, correvano, l'importante era arrivare, cioè era appunto un rito di passaggio per dimostrare di essere arrivate al momento, alla maturità fisiopsichica che consentiva, che rendeva consigliabile il matrimonio. Questo in tutte le città. C'è anche il mito di Atalanta, naturalmente, famosissimo, ma la cosa interessante è che a Olimpia c'era una gara femminile che invece era competitiva, era una gara che era stata istituita in onore di Era, nella quale le ragazze correvano, tra l'altro correvano nello stadio riservato ai maschi, che però per l'occasione veniva accorciato, e era competitivo, nel senso che chi vinceva e poteva iscrivere il suo nome, poteva fare dei doni alla dea, quindi c'è una traccia di un'attività agonistica competitiva a Olimpia. alla quale erano ammesse forse tutte, perché Olimpia era una gara panellenica, tutte le polis della Grecia potevano partecipare e quindi tutte le ragazze della Grecia o quantomeno tutte quelle dell'Elide, ma sembra tutte quelle della Grecia potevano partecipare. E questo ha fatto addirittura dire a qualcuno che c'erano le Olimpiadi femminili. Questo è un po' discutibile, però è molto interessante che c'era anche una gara agonistica femminile. Veniamo alle Olimpiadi moderne. Ettore Miraglia, che cosa ha significato la rinascita dei Giochi Olimpici? Beh, ha avuto un valore fondamentale per rilanciare molti sport, per lanciare nuovi sport. Lo vediamo anche per esempio adesso, no? A Rio de Janeiro ritorna il golf, ci sarà il rugby e questi sport avranno sicuramente un grande volano, un grande riconoscimento da parte di tutto il mondo sportivo e cresceranno. Far parte della famiglia olimpica significa che uno sport è continuamente vivo, anche gli sport cosiddetti minori vivono, forse alcuni sopravvivono solo perché sono legati ai giochi olimpici e quindi fanno parte della famiglia Cinque Cerchi, ricevono le sovvenzioni, i vari comitati olimpici nazionali devono supportarli, mentre invece economicamente tutto porterebbe verso altri sport che di solito sono il pallone, il basket, quelli più ricchi. Dunque la rinascita dei giochi olimpici in questo senso è fondamentale la nascita delle Olimpiadi per tutta la storia dello sport moderno, perché ha permesso di far sì che anche tutta la storia, l'evoluzione dell'uomo ne avesse un grande vantaggio, e tutto questo a merito di De Coubertin, anche se poi De Coubertin aveva visto un po' male quello spirito agonistico dei greci, che non era certo solo quello, e lo diciamo nel titolo, di partecipare, anzi, l'ho appena spiegato alla professoressa Cantarella, vincere più che partecipare, anzi, assolutamente vincere. Cosa si aspetta lei dalle Olimpiadi di Rio de Janeiro? Beh, intanto come sempre le Olimpiadi è il mito, è l'obiettivo di tutti gli sportivi, allora come adesso, e varrà sempre la stessa cosa, cioè succede sempre lo stesso, si parlerà tantissimo di sport, ci sarà tutto il racconto di quello che è successo e l'esaltazione di tutte le avventure e anche la condanna di quelle brutte che ormai purtroppo ci accompagnano abbastanza spesso. In termini di risultati è difficilissimo dire cosa ci si può aspettare da un'Olimpiade. Spesso nelle Olimpiadi si ottengono i migliori risultati sportivi, le migliori performance, altre volte invece no, non è così, perché il valore in palio è così elevato che gli atleti non riescono a ottenere il massimo da sé, ma si accontentano tra virgolette di vincere, cioè la medaglia d'oro alla fine è la cosa più importante, quindi in questo senso è difficile fare pronostici, però sarà grande spettacolo come sempre, soprattutto negli sport che fanno da sempre la parte maggiore, come il nuoto che occupa la prima settimana e l'atletica che occupa la seconda, che sono gli sport fondamentali, insieme alla scherma, al ciclismo, hanno sempre fatto parte della famiglia olimpica da quando sono rinati i giochi. Nel vostro libro voi sottolineate il valore universale e attuale delle Olimpiadi. Eva Cantarella vuole riprendere questo concetto brevemente? Ma sì, ha un valore fondamentale, naturalmente c'è anche molta retorica, oggi non possiamo certo più dire che come un tempo, quando durante le Olimpiadi c'era la famosa tregua, no? Si sospendevano le guerre e che questo serve a creare fratellanza fra i popoli, purtroppo questo non è vero, sarebbe bello e speriamo che in qualche modo funzioni questa cosa, ma insomma non è più così, non era così neanche allora perché poi le guerre riprendevano subito, ma quello che c'è diciamo di eterno è che sono molto importanti perché non solo per quelli che partecipano, ma anche per gli atleti, ma anche per chi li segue, è un insegnamento dell'importanza di vincere su se stessi, della necessità di impegnarsi seriamente in qualunque cosa, del fatto che la vittoria e la capacità di imporre anche una disciplina al proprio fisico non è una cosa solo appunto fisica, ma è proprio anche una cosa mentale, anche intellettuale, eticamente molto importante. Questo c'è ancora. Grazie a Eva Cantarella e Ettore Miraglia, autori di L'importante è vincere. Buona serata. Grazie a lei. Grazie. Ed Eva Cantarella da poco ha pubblicato il libro Non sei più mio padre, il conflitto tra genitori e figli nel mondo antico, pubblicato sempre da Feltrinelli, 156 pagine, 14 euro. Il tema del rapporto padri e figli è tornato d'attualità alla luce anche del dibattito sul significato della stessa parola famiglia. E questo tema affonda le sue radici nell'antichità classica, la disciplina che appunto Cantarella padroneggia. Si parte quindi dai miti antichi della Grecia classica per affrontare i riferimenti letterari, dall'Odissea alla tragedia, alle grandi commedie, e passare poi alla storia con una narrazione sempre ricca di spunti, anche divertenti, e alla vita quotidiana dei greci fino alla crisi finale simboleggiata dal processo a Socrate. Tutti aspetti che ci permettono di cogliere l'atteggiamento nei confronti dei giovani, e l'atteggiamento di questi giovani negli anni finali dell'antichità greca sembra anticipare comportamenti che risultano assolutamente attuali, come dimostrano queste righe. In una situazione di crescente instabilità politica, sociale ed economica, si era fatta strada la sensazione che gli eccessi della giovanile arroganza avessero giocato un ruolo nella decadenza di Atene. In molti degli stessi giovani che avevano così fortemente voluto la spedizione in Sicilia, la delusione aveva determinato una sorta di disinteresse alla gestione della cosa pubblica, alla quale avevano con tanta determinazione rivendicato il diritto di partecipare. Quel che ne conseguì fu che la loro pur giustificata disillusione nei confronti della politica dei padri non bastò a canalizzare le loro energie verso prospettive di cambiamento. Al contrario, quasi paradossalmente, determinò il loro riflusso nel privato, in una vita che le fonti descrivono di totale disimpegno, volta a trarre dalle circostanze quanto di meglio queste potevano offrire. Divertimenti, un comportamento spesso sregolato, vino, case da gioco e donne, senza ideali e senza obiettivi. E a questo punto ci interrompiamo per un attimo e ci risentiamo fra pochi istanti. Radio24.it è sempre con te, anche in viaggio. Consulta la mappa del traffico aggiornata in tempo reale. Potrai conoscere la viabilità del luogo in cui ti trovi e avere tutte le info su code, cantieri e altre criticità. Clicca su Mappa e scopri il nuovo servizio su Radio24.it. Radio 24, la passione si sente anche in viaggio. Un libro tira l'altro. Ben ritrovati con Salvatore Carruba. Parlavamo dunque delle Olimpiadi che si apriranno venerdì prossimo allo stadio Maracanã di Rio de Janeiro, e vi segnalo allora il libro di ambientazione brasiliana che parla di uno degli artisti più popolari del Brasile contemporaneo, cioè Caetano Veloso, che ritroviamo nel libro di Iguia Bachego, che è una scrittrice e giornalista di origine somala. Il libro si intitola Camminando Controcorrente, pubblicato da ADD, 142 pagine, 12 euro. Un guru, un santone della musica, l'amico che ci consola quando gli amori finiscono, prendono strade sbagliate, quello che organizza il movimento ma che fugge da ogni ideologia posticcia, un uomo onesto, trasparente, semplice, ribelle, così definisce la scrittrice l'artista. E la scrittrice tende a valorizzare il contenuto poetico delle canzoni di Veloso, che è cresciuto alla scuola di João Gilberto e che ha conquistato fin da giovanissima la scrittrice, l'autrice. Gaetano diventa un uomo controcorrente soprattutto in una data fatidica, il 1964, quando in Brasile avviene il colpo di stato militare, e canta lui stesso questa trasformazione e questa sua nuova dimensione, come sentiamo da queste battute della canzone Branquinha. Eu sou apenas um velho baiano, um fulano, um caetano, um mano qualquer. Vou contra a via, canto contra a melodia, nado contra a maré. Que é que tu vê, que é que tu quer, tu que é tão rainha, branquinha, carioca de luz, própria luz, só minha, quando todos os seus rosas nus, todinha, carnação da canção que compus, quem conduz neste. E a questo punto il confettino. Vi segnalo un paio di titoli di carattere olimpico. Innanzitutto il libro di Michele D'Ignazio, Poco una imba, l'avventuroso viaggio di Sant'Emanuele, pubblicato da Rizzoli, 254 pagine, 13 euro, con le illustrazioni di Silvio Mauri. L'autore è un autore di libri per ragazzi, ma questo libro si rivolge ai lettori di tutte le età, più o meno giovani, e ci parla di una curiosa avventura politica che spingerà il protagonista, appunto Sant'Emanuele, ad affrontare un viaggio in Brasile di natura tutt'altro che turistica. Per i più piccoli segnalo le Olimpiadi degli animali di Virgin e Morgan, pubblicato dalla Nuova Frontiera Junior, 16,90 €, che è un libro che insegnerà non soltanto alcune discipline olimpiche ma anche alcuni numeri. Chi è già spaventato della indigestione sportiva alla quale andiamo incontro nei prossimi giorni potrà leggere utilmente un libro dal titolo provocatorio Contro lo sport a favore dell'ozio di Bruno Ballardini, che è un esperto di comunicazione, libro pubblicato da Baldini e Castoldi, 214 pagine, 15 €. Questo libro è costruito coi tempi di una lunga partita. Si parte quindi col riscaldamento, nel quale l'autore spiega la tesi di fondo del suo libro. Lo sport fa male, così dice, fa male al corpo e fa male alla mente. Non esiste alcuna prova scientifica di come sarebbe l'umanità se non praticasse lo sport. Senza di esso non è affatto detto che saremmo cresciuti deformi e malaticci. Per quanto riguarda la promessa terapeutica di una mens sana, questa si è dimostrata una truffa perpetrata ormai per quasi 2 secoli. E poi l'autore affronta vari temi per concludere nei tempi supplementari con una netta dichiarazione a favore del diritto all'ozio e infine nei calci di rigore indica anche alcuni paradossi contro lo sport. Sentiamo per esempio dal libro alcune righe che smontano proprio l'ideale olimpico che ci sta per conquistare nei prossimi giorni. La filosofia dello sport si basa su una cozzaglia di anacronistici luoghi comuni intrisi di retorica, come ad esempio il motto «L'importante non è vincere, ma partecipare». Se qualcuno negli anni 60 avesse provato a dire un'idiozia del genere a una belva come Vince Lombardi, si sarebbe sentito rispondere con un ghigno «Vincere non è importante, è l'unica cosa». Allo stesso modo, De Coubertin credeva nel darwinismo sociale e vedeva nello sport uno strumento per far emergere i migliori. Eppure tanti continuano ad attribuirgli quel famoso motto, frase che non pronunciò mai. A pronunciarla fu invece Ethelbert Talbot, arcivescovo anglicano della Pennsylvania, durante una cerimonia di saluto ai partecipanti ai Giochi di Londra 1908 nella cattedrale di St. Paul. L'imbecillità di un simile enunciato si è rivelata micidiale non tanto per le conseguenze che ha prodotto nella cultura di massa del Novecento, quanto per l'immenso apparato che ha messo in moto. E il libro di Ballardini contiene un saggio, Il diritto all'ozio, che è stato pubblicato autonomamente dalla casa editrice La Vita Felice, e in questa edizione trovate il testo originale in francese. A fronte sono 124 pagine, 10,50 €. L'autore Paul Lafargue, vissuto tra il 1842 e 1911, era nato a Cuba, fu un socialista francese e fu di casa presso Carlo Marx, di cui sposò una figlia. Questo libro fu pubblicato nel 1880 e Lafargue, che fu un attivista politico per tutta la sua vita e anzi poi diventò anche deputato, vi proclama la follia dalla quale in queste settimane cerchiamo tutti di liberarci, e cioè quella del lavoro, soprattutto quella del lavoro indefesso. Dice l'autore: l'amore del lavoro, la passione esiziale del lavoro, spinta sino all'esaurimento delle forze vitali dell'individuo e della sua progenie. Anziché reagire contro questa aberrazione mentale, i preti, gli economisti moralisti hanno proclamato il lavoro sacrosanto. E dunque conclude: se vogliamo ritrovare nella nostra Europa civilizzata tracce dell'originaria bellezza dell'uomo, dobbiamo cercarla presso quelle nazioni dove i pregiudizi economici non hanno ancora sradicato l'odio per il lavoro. E fa un esempio, indica un modello l'autore, la Spagna, che aggiunge sta purtroppo degenerando, ma almeno può ancora vantarsi di possedere meno fabbriche che non noi, prigioni e caserme. Per lo spagnolo, conclude, il lavoro è la peggiore schiavitù. Per la Farg occorre dunque lavorare pochissimo, non più di 3 ore al giorno, e occupare il tempo resosi così libero a consumare e a divertirsi. L'eccesso di lavoro infatti porta a una sovrapproduzione che alimenta il paradosso di merci che i lavoratori che si ammazzano per produrli non possono permettersi di acquistare, che devono dunque essere trasferite sui mercati esteri. Insomma, la Farg è un antesignano convinto e battagliero del lavorare meno per lavorare tutti. lo stesso editore Baldini e Castoldi, che ha pubblicato il libro Contro lo sport, vuole coccolare però anche gli appassionati di sport e pubblica di Roberto Condo, che è un giornalista sportivo, I Cinque Cerchi, storia degli ori olimpici italiani, 466 pagine, 18 euro. Questo è un libro indispensabile per gli appassionati perché ripercorre la storia di tutte le Olimpiadi moderne, a partire da quelle di Parigi del 1900 fino all'ultima, Londra 2012, con una speranza per Roma 2024, qui espressa dal presidente del Comitato Olimpico Nazionale Italiano Giovanni Malagò. A questo elenco manca una medaglia d'oro e sarà quella che ci darà la cifra tonda, perché fino adesso ci fermiamo a 199 medaglie d'oro vinte dall'Italia fino a Londra. La prima fu vinta a Parigi appunto nel 1900, il 2 giugno, da un aristocratico, Gian Giorgio Trissino del Vello d'Oro, conte di Trissino e Valdagno e Castelvecchio, un 23enne che vinse in quella prima edizione organizzata un po' confusamente all'interno dell'esposizione universale la gara ippica del salto in alto. In quell'edizione ci fu anche un Antonio Conte che inaugurò la serie delle vittorie in una disciplina che ci ha dato sempre grandi soddisfazioni, anzi ci ha assicurato il maggior numero di vittorie, il più alto bottino di medaglie d'oro, cioè la scherma. Conte vinse allora la gara di sciabola riservata ai maestri d'arme. E qui troviamo appunto le 199 storie che, come scrive l'autore, mischiano fenomeni assoluti anche di longevità agonistica a meteore capaci di cogliere l'attimo, alternano imprese epiche a colpacci sorprendenti, successi da padrone ed affermazioni risicatissime da batticuore, mettono in fila i giorni più felici dei nostri giochi, dai primissimi con rare testimonianze senza immagini agli ultimi dell'era social con una cascata ininterrotta di informazioni. Torniamo al Brasile per spostarci in un altro grande paese sudamericano, l'Argentina, dove è ambientato il libro di un'autrice che si dice cultrice di una virtù di cui abbiamo appena parlato, e cioè l'ozio. L'autrice è Lilia Carlotta Lorenzo, il libro si intitola Il cappotto della macellaia, pubblicato da Mondadori, 234 pagine, 18 euro. Qui siamo in uno sperduto paesino della Pampa argentina, scosso da un omicidio che rivela strane vicende nella piccola e pettegola comunità. Un romanzo insolito che ci regala una galleria di personaggi altrettanto insolito in un ambiente inconsueto. Ultimi arrivi. Vi segnalo innanzitutto un giallo storico di un personaggio già collaudato, l'autrice Patrizia De Bic van der Noot, che ha scritto La congiura di San Domenico, Todor editore, 258 pagine, 16 euro. Il personaggio che già conosciamo è il cinquecentesco Julius von Erstein, che è una guardia svizzera del Papa all'epoca Giulio II, che si trova a Bologna, il Papa assieme alla sua guardia svizzera, per riaffermare il dominio su quella città. E proprio in quei giorni, già convulsi, il militare dovrà indagare su un complesso delitto di cui è vittima un inquisitore domenicano. Un'altra indagine è quella dell'ispettore Risk, il personaggio di uno scrittore svedese, Stefan Arnhem, che il libro si intitola L'angelo di ghiaccio, è pubblicato da Spelling & Kupfer, 456 pagine, 19,90 euro, tradotto da Roberta Nerito, dove l'inchiesta riguarda pure il delitto di un personaggio molto in vista, in questo caso il ministro della giustizia svedese. E infine dalla Svezia ci trasferiamo a Sud Europa, a Madrid, in un quartiere popolare descritto da una scrittrice che ha avuto un notevole successo, e cioè Almudena Grandes, I baci sul pane, pubblicato da Guanda, 316 pagine, 18 euro, tradotto da Roberta Bovaia. È un romanzo questo che fotografa l'avanzamento e le conseguenze della crisi economica che vediamo arrivare a Madrid quasi come una sorta di epidemia, scrive l'autrice. La situazione ha cominciato a traballare nello stesso preciso istante per tutti. All'inizio hanno avvertito una scossa, si sono sentiti venir meno la terra sotto i piedi, hanno pensato che si trattasse solo di un'illusione ottica. Non durerà per molto, si sono detti, ma invece è durata. E apparentemente nulla è cambiato, mentre l'asfalto delle strade si gonfiava e un vapore bollente, malsano, infettava l'aria. Nessuno ha visto quelle crepe, ma tutti hanno sentito che da lì se ne andava via la tranquillità, il benessere, il futuro. Ma il libro non è un libro disperato, perché anzi descrive proprio la voglia di reagire e di credere nell'amicizia. E con questo ringrazio Guido Scotti, redazione, e Pietro Lacorti, regia. Vi ricordo il nostro indirizzo di posta elettronico libro@radio24.it e il nostro sito www.radio24.it, dove potete sempre ascoltare queste e tutte le altre nostre trasmissioni. Vi auguro buona domenica, buoni giochi olimpici e vi do appuntamento a domenica prossima.